Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa è la legge, io credo che anche i genitori devono esserne consapevoli. Le scelte dei presidi sono collegate alle leggi dello Stato italiano, a tutela dell'incolumità e delle responsabilità legate ai minori, che sono dettate dalle leggi attuali, che attenzione a non farlo diventare un elemento quasi di non assunzione di responsabilità nell'attuazione di una legge dello Stato. Ecco, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la ministra Fedeli, ministra dell'istruzione, oggi sulla 7 ad Agadà, ha ricordato che esiste una legge che stabilisce che i genitori devono andare a prendere i figli a scuola e accompagnarli se questi sono minori di 14 anni. Penso che in tutta Italia ci siano milioni di ragazzini che vanno e vengono tranquillamente per conto loro, però c'è una sentenza della Cassazione di qualche tempo fa rispetto a un ragazzino che era morto uscendo da scuola andando sotto una macchina, e quindi si ristabilisce questa regola, questa legge, una legge che salvaguarda l'incolumità dei minori di 14 anni. E ci sono naturalmente delle polemiche, difficoltà dei genitori, i presidi stessi hanno scritto una lettera al governo, ne parleremo. Perché è un argomento che sta facendo molto discutere questo, creando ovviamente, immaginiamo, delle difficoltà ai genitori che non possono accompagnarli e andarli a prendere tutti i giorni. E poi ci occuperemo di politica, è stato un giorno straordinario, veramente vivacissimo, perché in un sol giorno è successo che abbiamo la legge elettorale, che piaccia o non piaccia, e c'è la nomina, o meglio la proposta del Presidente del Consiglio Gentiloni per il governatore della Banca d'Italia, per la nomina e riconferma Visco, e poi c'è Grasso, il presidente del Senato, che ha deciso di lasciare il Partito Democratico. Insomma, un sacco di cose, poi parleremo anche della Catalogna. Per i vostri commenti, ricordatevi che c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per interagire qui con il programma, oppure potete scrivere messaggi, opinioni, eccetera, WhatsApp al 349-238-6666. Quindi pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire in qualsiasi momento, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Quindi, prima di affrontare tutti questi argomenti con i vari ospiti, sentiamo com'è andata in sintesi la giornata. Politica italiana, il Rosatellum è legge, Verdini dice merito mio e il presidente del Senato Grasso lascia il PD. Banca d'Italia, il presidente del Consiglio Gentiloni ha indicato Visco per il secondo mandato come governatore. La crisi spagnola, Madrid e Barcellona verso lo scontro finale, Puigdemont non convoca le elezioni, mancano le garanzie, dice. Il G8 di Genova, Strasburgo condanna l'Italia, a Bolzaneto dice c'è stata tortura. Violenza contro le donne, la Corte d'Appello di Bologna respinge le tesi della Presidenza del Consiglio e stabilisce che bisogna risarcire le vittime anche prima della norma del 2005. Caso Anna Frank, pugno duro di FIGC e procura sulla Lazio, Lotito ha violato la lealtà sportiva, 12 gli ultra indagati. Scuola e polemiche, la ministra Fedeli conferma, genitori, se i vostri figli frequentano le medie dovete, secondo la legge, andarli a prendere a scuola. Partiamo quindi ovviamente con la politica italiana. Il Rosatellum ha avuto oggi il via libera definitivo dal Senato, ma nel PD non si placano le polemiche, e poi avete sentito il presidente del Senato Grasso ha annunciato di aver abbandonato il Partito Democratico. Ora Grasso, come vuole il regolamento, verrà iscritto al gruppo misto. Ci sono volute 5 fiducia al Senato e 3 alla Camera, ma alla fine il Rosatellum è legge, con 214 sì, 61 no e 2 astenuti. Palazzo Madama dà il via libera definitivo alla legge elettorale. Il capogruppo del PD Luigi Zanda rivendica le fiducie poste per evitare il voto segreto. Io sono fermamente contrario al suo uso. Non è più voto di coscienza, ma è un voto di manovra politica. E Zanda si dice favorevole a mettere la fiducia anche sullo Ius Soli, legge che voterebbe anche Denis Verdini. Il leader di ALA interviene in aula tra le proteste del Movimento 5 Stelle e rivendica il suo ruolo nella maggioranza. Oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di articolo 1 e col nostro ingresso. Non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura. A sostenere la legge anche Forza Italia e la Lega, contro il Movimento 5 Stelle, Giovanni Endrizzi. Ma quale Rosatellum? Questa è la legge Bunga Bunga, un'orgia di pluricandidati dove tutti vanno con tutti. 36% di collegi uninominali, 64 proporzionali, soglia di sbarramento al 3% per i partiti, al 10% per le coalizioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come immaginate, ovviamente torniamo a parlarne di questo, così come torneremo sulla nomina per Banca Italia, perché il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha proposto Ignazio Visco per un secondo mandato. Non è bastata la mozione, né sono bastati tentativi anche delle ultime ore da parte del PD di fargli cambiare idea. Gentiloni ha tirato dritto e ha indicato Ignazio Visco per il secondo mandato alla Banca d'Italia, soluzione ovviamente concordata con il capo dello Stato Mattarella. Il nome dell'attuale inquilino di Palazzo Koch è stato scritto nero su bianco nella lettera inviata dal Premier al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, passaggio con cui si apre ufficialmente la procedura di nomina del nuovo governatore. I 13 saggi del Consiglio esamineranno la proposta domattina alle 8:30 con un parere necessario ma non vincolante. Alle 11 Consiglio dei Ministri che delibererà sulla nomina e, ultimo passaggio, la firma del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica. Una partita che dunque si chiuderà in tempi brevi e che scontenta il segretario del PD. Con Gentiloni su Banca Italia abbiamo un'opinione diametralmente diversa, aveva detto ancora questa mattina Matteo Renzi, ma rispetto alla scelta spero che i prossimi 6 anni siano migliori di quelli trascorsi, peggiori è un po' difficile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Che ne pensate? 349-238-6666, pure pagina Facebook di Effetto Notte. Molti gli argomenti, anche la crisi spagnola di cui parleremo. Intanto vi anticipo che il presidente catalano Puigdemont ha deciso di non convocare le elezioni come aveva suggerito Madrid, perché dice mancano le garanzie. Sarà il Parlamento catalano a decidere se proclamare l'indipendenza. Intanto il governo di Madrid ha deciso l'attivazione dell'articolo 155 contro la Catalogna, che è quello che dovrebbe sospendere l'autonomia della regione. Ora parliamo di Banca Centrale Europea, che dal prossimo anno dimezzerà il quantitative easing, positivi mercati. Come era nelle attese, la Banca Centrale Europea annuncia la riduzione del piano di stimoli all'economia. Da gennaio gli acquisti di titoli passeranno da 60 miliardi a 30 miliardi al mese fino a settembre, con la possibilità di proseguire oltre e aumentare il ritmo se necessario, spiega il numero uno della BCE, Mario Draghi. I tassi di riferimento restano invariati e si prevede che rimarranno ai loro livelli attuali per un lungo periodo di tempo, ben oltre l'orizzonte del quantitative easing, annuncia Draghi, che parla di una ripresa ampia e solida nell'area euro. L'obiettivo è mantenere una linea ultra accomodante per non destabilizzare i mercati e soffocare la ripresa, e perché l'inflazione di base continua a rafforzarsi e sostenere gli sviluppi nel medio termine. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi c'è il G8 di Genova, si torna a parlare del G8 perché la Corte di Strasburgo condanna l'Italia poiché a Bolzaneto ci fu tortura e lo Stato non condusse un'inchiesta efficace. Quanto avvenne nella caserma di Bolzaneto per mano delle forze dell'ordine fu atto di tortura. A dirlo è la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato l'Italia per le azioni dei membri delle forze dell'ordine e perché lo Stato non condusse un'indagine efficace. La sentenza si riferisce ai fatti avvenuti durante il G8 di Genova nel luglio 2001, quando più di 200 manifestanti furono rinchiusi fra il 20 e il 22 luglio nel carcere di Bolzaneto senza alcuna ragione, e lì vennero sottoposti a pestaggi, violenze psicologiche, costretti a cantare canzoni inneggianti al fascismo. Al mattino la polizia carceraria ha cominciato a menare un po' tutti e quindi mi hanno pestato sul collo, in faccia. I giudici hanno riconosciuto ai ricorrenti il diritto a ricevere tra i 10.000 e gli 85.000 euro a testa per danni morali. Nella stessa sentenza l'Italia è stata condannata anche perché alcuni agenti di polizia penitenziaria di Asti nel 2004 torturarono due detenuti, Andrea Cirino e Claudio Renne. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso occupiamoci di violenza contro le donne, perché lo Stato deve risarcire la vittima di un reato violento, poiché la direttiva dell'Unione Europea del 2004 garantisce un indennizzo per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro. Sentiamo di cosa si tratta. Lo Stato deve risarcire in caso di femminicidio anche se la violenza si è consumata prima dell'entrata in vigore della legge, così come, se non lo fa il responsabile, deve risarcire le vittime anche dopo uno stupro o una rapina. Spalanca le porte ad infinite richieste di indennizzo la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, respingendo il ricorso del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio, conferma il versamento di 100.000 euro per la mamma di una donna uccisa 25 anni fa nel piacere Piacentino. Potranno esserci infiniti ricorsi anche per violenze di extracomunitarie, prevede ora l'avvocato Claudio De Filippi, che ha seguito il caso Rossana Vade. Gli italiani probabilmente non sanno di avere il diritto alla sicurezza. Possono azionare sia cittadini italiani sia cittadini europei in Italia. Questo ovviamente ha anche ripercussioni sul fenomeno immigratorio. Nel momento in cui l'Italia avrà recepito in pieno la direttiva europea, dovrà finanziare un fondo per gli indennizzi alle vittime, compresi i figli delle donne uccise, per i quali però fa un altro passo in avanti la legge ad hoc che li tutela. Approvato dalla Commissione Giustizia della Camera, il testo è atteso in aula dopo la manovra. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche questo tema che approfondiremo poi nel corso di questa puntata di Effetto Notte, c'è il caso Anna Frank, che ha fatto molto discutere in questi giorni. Per la procura della FIGC, la Lazio e il suo presidente Lotito hanno violato l'articolo 1 bis del codice di giustizia sulla lealtà sportiva e l'articolo 11 sui comportamenti discriminatori. Sempre per gli insulti antisemiti, la procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 12 ultrarazziali. E poi la polemica che riguarda la scuola. Gli studenti minori, anche quelli delle scuole medie, vanno consegnati ai genitori al termine delle lezioni e non possono allontanarsi da soli perché la scuola ha il dovere di provvedere alla loro sorveglianza per tutto il tempo in cui le sono affidati. Questa è la legge, credo che anche i genitori debbano esserne consapevoli, ha detto oggi la ministra Fedeli, l'avete sentita, poi magari la risentiremo, però cerchiamo di capire bene di cosa si tratta. È una norma che sta facendo molto discutere genitori, tutto l'ambiente scolastico, anche i stessi presidi, alcuni si sono riuniti per scrivere una lettera al governo. Questo ne riparleremo dopo. E poi all'estero invece, notizie dall'estero, Turchia, resta in carcere il presidente di Amnesty International in Turchia, l'avvocato Taner Kilic. Lo ha deciso il tribunale di Smirne, davanti a cui è comparso oggi per la prima volta per rispondere alle accuse di terrorismo per sospetti legami con la presunta rete golpista di Gulen Kilic, detenuto da giugno. E poi in Thailandia, dove centinaia di migliaia di thailandesi sono sparsi per le strade di Bangkok per dare il loro ultimo saluto nel giorno più importante dei cinque nei quali si estendono le esequie dell'amato re Adulyadej, morto un anno fa all'età di 88 anni, ma le ceneri sono state bruciate oggi, il corpo è stato dato alle ceneri al fuoco oggi. Per 7 decenni è stato cremato con una cerimonia privata, è stato re per 7 decenni, è stato cremato con una cerimonia privata. Questo ha deluso moltissimo i thailandesi, che si sono lamentati, che hanno aspettato un anno appunto per assistere a questo funerale, un funerale pensate da 90 milioni di dollari. E poi per quanto riguarda l'Italia, la cronaca, nonostante le condizioni di scarsa visibilità causato da roghi che colpiscono il Piemonte, anche oggi gli equipaggi di Canadair e degli elicotteri della Protezione Civile hanno cercato di spegnere le fiamme che da oltre una settimana stanno interessando le province di Cuneo e Torino. Il governatore del Piemonte, Chiamparino, ha detto che verrà chiesto lo stato di calamità. Per chiudere, una novità che riguarda il canale Disney Channel, una svolta storica. Per la prima volta in una serie TV per ragazzi viene introdotta una trama omosessuale. A fare da apripista la popolare Andy Mack, la cui seconda stagione, che in Stati Uniti si apre il 27 ottobre, sarà incentrata sul tema della consapevolezza e dell'accettazione da parte di uno dei personaggi della propria omosessualità. In particolare l'attenzione sarà sul personaggio di Cyrus, Joshua Rush, il quale scoprirà di avere dei sentimenti per un suo compagno di classe. E con questo direi che il sintesi della giornata è chiusa, così tra poco, dopo la viabilità, possiamo cominciare ad approfondire alcuni argomenti con gli ospiti. Per quanto riguarda i vostri interventi, i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti ricchi di notizie, di approfondimenti con gli ospiti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi. Quindi cominciamo subito allora dal primo tema. Intanto i vostri messaggi, molti sono sulla legge ricordata dalla ministra Fedeli, altri sono sulla legge elettorale. Per esempio c'è un ascoltatore, Gianni da Bologna, dice: questo governo è unico a complicare le cose. Poi un altro messaggio: ma questa Fedeli in che mondo vive? Tra l'altro, incredibilmente, ministro della pubblica istruzione, va bene, le solite polemiche sulla laurea. E poi invece qualcuno che fa i complimenti a Grasso, che si è dimesso dal PD. C'è Marco che scrive a proposito del caso scuola, dice che devono andare i nonni a prenderli, ma con la loro stupida legge Fornero i nonni sono ancora al lavoro, se non saranno già morti dalla fatica, che classe dirigente di netti, dice Marco. Insomma, molti vostri messaggi, però intanto vi ricordo molto velocemente i fatti principali della giornata, siccome qualcuno non accende puntualmente alle 21, e poi cominciamo con i temi. La politica italiana è Rosatellum che legge, Verdini dice che è merito mio, il presidente del Senato Grasso lascia il PD. Banca d'Italia, il presidente del Consiglio Gentiloni ha indicato Visco per il secondo mandato come governatore, la crisi spagnola di cui parleremo tra pochissimo, il G8 di Genova, Strasburgo condanna l'Italia, dice a Bolzaneto c'è stata tortura, violenza contro le donne, la Corte d'Appello di Bologna respinge le tesi della Presidenza del Consiglio e stabilisce che bisogna risarcire le vittime anche prima della norma del 2005. E abbiamo il nostro Sergio Nava qui, ciao Sergio. Ciao Roberta. Per parlare appunto della crisi spagnola, il presidente catalano Puigdemont ha deciso di non convocare le elezioni anticipate, che potevano essere un compromesso con Madrid. Madrid aveva suggerito, vabbè, troviamo una via di mezzo, non ovviamente la secessione e indipendenza, però se si convocano nuove elezioni vediamo poi che cosa succede. Però Puigdemont ha detto no, non ho avuto le garanzie per poter convocare queste elezioni, no Sergio? Allora Madrid ha deciso di attivare il famigerato, famoso articolo 155, che è quello che dovrebbe sospendere l'autonomia della Catalogna. Diciamo che stasera stiamo guardando l'orlo dell'abisso, nel senso che domani sarà una giornata decisiva e potrebbe succedere tutto. Potrebbe succedere o una dichiarazione di indipendenza in qualche modo da parte del Parlamento catalano. Domani si riunirà a partire dalle 12 e voterà le proposte di risoluzione del Parlamento catalano, quindi Parlamento catalano, quindi potrebbe esserci anche una risoluzione che in qualche modo vara ufficialmente l'indipendenza, compiendo il mandato del referendum del 1 ottobre, referendum ovviamente definito da Madrid illegale e legale da Barcellona. E contemporaneamente, nelle stesse ore, il Senato spagnolo a quel punto metterebbe definitivamente in marcia l'articolo 155 e commissarierebbe Barcellona. E a quel punto è difficile veramente capire cosa potrebbe succedere, perché tecnicamente la forza sta nelle mani di Madrid, ma potrebbe anche esserci della resistenza a Barcellona, e vedremo anche in quel caso che tipo di resistenza, se pacifica. Tutto è assolutamente circondato da tutto aperto, un enorme, insomma, punto di domanda. Oppure, quello che hai detto tu è giustissimo, Roberta, ma allo stesso tempo quell'ipotesi di elezioni anticipate potrebbe ritornare di nuovo in campo. Come? Se, notizia di poco fa, è stato accettato un emendamento del Partito Socialista al Senato spagnolo, nel quale messa in moto dell'articolo 155 si propone una gradualità. Se in qualche modo arrivassero a Barcellona delle rassicurazioni, certezze più che rassicurazioni, che in caso di convocazione delle elezioni il 155 si sospende, finisce, potrebbero nuovamente tornare in campo le elezioni anticipate. Sergio, questo però, potrebbe... potrebbe cambiare, potrebbe trovare una mediazione. Però intanto oggi migliaia di studenti, attivisti catalani sono scesi in piazza per protestare proprio contro il presidente catalano, definendolo stato, un traditore per il suo andamento ondivago, no? Su questa è stata una giornata in montagne russe, nel senso che a un certo punto Puigdemont è quasi diventato il nemico della piazza, quando sembrava stesse per convocare elezioni autonomiche. Quando poi ha detto che le toglieva dal tavolo, quella stessa piazza l'ha applaudito e ha cominciato a gridare indipendenza. Quindi è chiaro che è una situazione estremamente difficile. Nessuno al mondo, penso, vorrebbe oggi trovarsi nei panni di Carles Puigdemont, perché qualsiasi decisione prenda, chiaramente si troverà una parte o il governo spagnolo contro o una parte importante della società catalana contro. Quindi però, come detto, aspettiamoci nella notte o domani mattina eventuali altre sorprese. Non è finita qui. Stiamo guardando l'orlo dell'abisso in questo scontro istituzionale fortissimo che si prepara, ma potrebbe ancora succedere di tutto. Aspetteremo di vedere. Con te Sergio Nava. Ciao Sergio, ciao. Grazie. Oh, e dall'abisso spagnolo a una giornata politica italiana incredibile, si potrebbe dire. Che cosa è successo oggi? Forse c'è una congiuntura astrale molto particolare. Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Ciao Barbara. Ciao, buonasera a tutti. Perché in una volta sola abbiamo la legge elettorale, che piace o non piace, c'è la legge elettorale. È stato scelto il nome del governatore di Banca Italia, che non è un nome qualsiasi, diciamolo, dopo tutti questi giorni di tensione, e poi il presidente del Senato Grasso, che ha annunciato di aver lasciato il Partito Democratico. Allora, Barbara, iniziamo dal governatore di Banca d'Italia, no? Ci sono stati 10 giorni di tensione dopo la famosa mozione del PD approvata dalla Camera, che chiedeva discontinuità nella scelta del governatore, però Gentiloni oggi evidentemente ha deciso di non aprire nuovi scenari, di aprire incertezze, eccetera, e ha indicato come nome, perché questa è la procedura, no? Il Presidente del Consiglio che indica il nome non vincolante, poi lo porta al Consiglio Superiore della Banca d'Italia, poi c'è il Consiglio dei Ministri, ma insomma ha indicato, ha riconfermato il nome di Ignazio Visco dopo tutto quello che è successo, Barbara. Sì. Renzi ha ribadito che non l'avrebbe confermato, anche se rispetta le scelte, dice neanche il Presidente degli Stati Uniti resta in carica 12 anni, perché Visco ha fatto 6 anni, con questa riconferma farà altri 6 anni. E poi ha ricordato Renzi che il 75% del Parlamento ha votato quella mozione contro, diciamo, Visco, no? Sì, diciamo che è evidente che Renzi, il pressing di Renzi non ha avuto un esito favorevole secondo quelle che erano le sue intenzioni. L'attacco scomposto, perché questo è, così è stato definito, insomma, ha intervenuto in Parlamento con quella mozione, forse paradossalmente addirittura rafforzato Visco, nel senso che ha messo di fronte il capo dello Stato e anche il Presidente del Consiglio di fronte all'ipotesi di una invasione di campo, insomma, cioè della politica rispetto a un'istituzione qual è Banca d'Italia e la sua autonomia. Quindi se nelle scorse settimane o mesi si era ipotizzato un avvicendamento dell'attuale governatore, quella scelta palese del PD probabilmente è stata troppo smaccata per poter consentire che poi intervenisse proprio il Parlamento a dire no, mettete lui o non mettete Visco, insomma, cioè, quindi la conferma, se Visco, l'unica ipotesi di un'uscita di Visco di scena sarebbe stata quella che lo stesso governatore non voleva trovarsi al centro di una polemica così forte e facesse un passo indietro. Nel momento in cui questo passo indietro non è intervenuto, direi che è stato quasi inevitabile la riconferma di Visco. E c'è per esempio tra gli ascoltatori Gilles che scrive: non so se Visco sia all'altezza del compito, ma non è certo una conferma per merito. In Italia vige un sistema feudale per cui le nomine pubbliche sono fatte esclusivamente sulla base di vassallaggi e giochi di potere. Sigurd dice: ne penso tutto il male possibile di questa riconferma, anche se non sono esperto di banche, sono certo di non sbagliarmi di molto. E poi invece altri ascoltatori, per esempio Francesco dice: molto rumore per nulla, proprio ragione chi afferma l'italianità di Shakespeare. E Davide: Renzi ha preso nota, scrive, non so se intende che poi si vendicherà oppure che se ne fa una ragione, come lui stesso dice Renzi. Mentre un altro ascoltatore scrive: con la conferma di Visco immaginiamo l'imbarazzante situazione con l'eventualità di Renzi premier, che, anche se non sembra, da quello che dicevi tu, Barbara, nei giorni scorsi, un'eventualità molto fondata, però chi può dire? Sì, poi ci sono stati altri casi di governatori, come dire, che non erano proprio in linea con i presidenti del Consiglio, ma in questo senso va tutelata l'autonomia della Banca d'Italia. Rispetto a quello che dicevano gli ascoltatori, cioè sul fatto, cioè che davano giudizi abbastanza tranchant sull'attuale governatore, io sarei molto più attente, insomma, perché poi queste vicende sono abbastanza complesse per arrivare a dare dei giudizi così netti. Sì, così Barbara, netti. Invece sull'addio di Grasso al PD, possibile che ci sia un collegamento con il varo definitivo della legge elettorale? Vogliamo sentire per esempio il ministro Martina, ministro PD dell'agricoltura, che cosa ha detto questa sera a 8:30 sulla 7 a questo proposito. Le motivazioni le capiremo, credo, nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Però perdete un pezzo importante. Certamente è una scelta che amareggia. Io credo che a questo punto di vista non ci sia nessun dubbio. Capiremo precisamente quali sono le ragioni che hanno portato il Presidente a, a fare questa scelta. Se il tema fosse quello della legge elettorale, io credo che noi abbiamo buoni argomenti per spiegare perché. Questo paese aveva bisogno di un passaggio come quello che abbiamo affrontato. Che dici, Barbara? È collegato Zanda, questo è Martina, Zanda ha detto non condivide più la linea del partito, del PD. Ma diciamo che i rapporti tra il presidente Grasso e il PD sono deteriorati da tempo. Già, se ricordate, ai tempi della riforma costituzionale c'erano stati dei confronti piuttosto animati con Grasso, che appunto metteva l'accento su alcuni aspetti criticandoli. E il per PD, esempio, l'abolizione o la trasformazione del Senato, perché poi non era una buona abolizione. Sì, e il PD che in alcuni casi lo redarguiva sostenendo che insomma perdeva la sua terzietà, ma anche più di recente proprio sul Rosatellum era intervenuto un duro botta e risposta tra il Presidente del Senato che invitava i partiti a non pensare solo alla convenienza rispetto alla scelta della legge elettorale e il Presidente del Partito Democratico Orfini che gli aveva risposto dicendo che usava argomenti da antipolitica, quindi come dire, c'erano tutte le premesse perché questo rapporto poi già deteriorato si consumasse fino alla fine. È chiaro che la decisione di Grasso di manifestare appunto l'abbandono al PD proprio nel giorno dell'approvazione della legge elettorale crea un collegamento inevitabile, no? Per me crea un collegamento e forse possiamo anche intravedere una scelta politica da parte del Presidente del Senato. Andrà con MDP anche se adesso è nel gruppo misto, secondo te? Beh, secondo me intanto l'appartenenza a un gruppo in questo momento, siamo a fine legislatura e poi per il Presidente del Senato comunque in questa fase, cioè, direi che non è questo che ci fa capire cosa farà Grasso. Certamente però gli stessi commenti arrivati da MDP, non ci dimentichiamo che era stato anche alla festa di MDP il presidente Grasso, era stato osannato, qualcuno l'aveva già indicato come futuro leader, candidato, ecco, quindi potrebbe essere quella la direzione, leader di quella coalizione. E magari qui si stanno ponendo le premesse perché questo avvenga. Barbara, proprio siamo in chiusura, leggo fra i vari messaggi quello di Clotilde che dice: lode, gloria, Grasso non si è potuto sottrarre agli ordini del gentil Renzi, ma subito dopo ha lasciato il FUPD, penso e spero che seguano il suo esempio le teste pensanti ancora effettivamente legate a quello che erano i DS. Dopo le dichiarazioni, scrive Clotilde, di Verdini, non credo che la decenza possa farli restare in quel verminaio. Vogliamo sentire una delle dichiarazioni di Verdini oggi al Senato? Un tempo esisteva l'appoggio esterno ai governi, adesso c'è l'appoggio fantasma, coniato appositamente per noi. Un neologismo tartufesco, perché lo sanno anche i sassi, che qui dentro non c'è mai stata una vera maggioranza politica, con la quale tutti devono fare i conti. Ma questo teatrino degli equivoci, questo gioco ipocrita, ha fatto comodo un po' a tutti. Quindi Verdini ha rivendicato con orgoglio che è stato decisivo l'appoggio di Ala, no? Alla nuova legge elettorale, ricordiamo che è nata dalla... In realtà, Verdini ha detto un'altra cosa che è una verità, che può non piacere. Cioè, questa maggioranza in realtà nasce come una maggioranza anomala, perché ricordiamolo sempre, nasce con le grandi intese. Il governo Letta era il governo delle grandi intese tra Berlusconi e il PD di allora, di Bersani, per cui nasce così perché non c'erano i voti al Senato, non c'era una maggioranza di solo centrosinistra al Senato e quindi si fece il governo si reggeva su una maggioranza appunto di larghe intese. Poi l'uscita di Berlusconi, la frammentazione di Forza Italia, dell'allora PDL, cioè, poi la storia ha seguito un altro corso, ma è vero che Verdini ha quasi sempre votato nella maggioranza, anche in quella maggioranza dove c'era ancora MDP. Cioè, non è che anche nelle precedenti manovre ha dato il suo parlo delle leggi di bilancio, ha dato il suo contributo. Quindi da questo punto di vista devo dire che forse da rude toscano qual è, una verità l'ha detta, cioè ed è evidente che con questa legge elettorale, ma anche, ripeto, anche con la legge elettorale del patto precedente, quello con i 5 Stelle, che dove non c'era invece, non mi ricordo neanche più chi non ci fosse allora, non c'erano i centristi mi sembra, anche con quella legge elettorale una maggioranza non c'era, perché nel momento in cui non c'è il ballottaggio e ci sono tre forze o tre raggruppamenti politici con analoga forza, è impossibile che ci sia una maggioranza di una sola parte. Cioè, l'unico modo è quello per che succederà avere... anche con questa legge elettorale, insomma, no? No, cioè, perché sarà... soltanto e ci saranno, noi vedremo che dopo le elezioni le maggioranze si ricomporranno, però in questo senso io non credo che sia uno scandalo, perché dobbiamo deciderci, e lo dico rivolta soprattutto ai nostri ascoltatori, se vogliamo un sistema maggioritario dove esce un vincitore, ma un vincitore che magari ha solo il 30% dell'intero elettorato. Ci vuole un sistema maggioritario. Ci vuole un sistema maggioritario, come c'è in altri paesi, dove Macron ha vinto con poco più del 25%, oppure in Gran Bretagna, dove l'allora partito di Farage non era arrivato in Parlamento nonostante avesse preso oltre il 20% dei consensi. Mentre questo abbiamo detto che per un terzo maggioritario e poi per tutto il resto proporzionale. Poi ci ritorneremo ancora a spiegare, visto che ormai è legge questo Rosatellum bis. Grazie intanto a Barbara Fiammeri e buona serata, Barbara. Grazie a voi. Ciao. E i vostri messaggi dopo questa pausa. La natura di prima mano. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte dovreste saperlo ormai, che siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Allora, ancora tanti temi e tante cose da raccontarvi, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. C'è un ascoltatore sulla vicenda della scuola di cui parleremo dopo, che dice: in Svizzera i bambini delle elementari vanno e tornano da scuola da soli, ma anche in Italia, solo che c'è questa legge, adesso vediamo se si può modificare. Poi ci sono degli ascoltatori che pensano che tutto il mondo giri intorno a loro, per fortuna una ristrettissima minoranza, ogni tanto sbucano fuori come se si svegliassero dal letargo di anni e dicono, per esempio come questo ascoltatore: Leccapiede, hai avuto un ordine di non parlare dei referendum? Ne abbiamo parlato per 4 giorni di seguito da ogni angolazione, ma non è che questa è la radio on demand, che uno si sveglia all'improvviso e vuole che si parli di quell'argomento in cui si è parlato lungamente, vuole che se ne parli anche quel giorno perché si mette in ascolto. Lo dico sempre, non più di un bicchiere a pasto, per favore. Adesso parliamo di cose serie. Tra pochissimo, vi ricordo, abbiamo parlato della crisi spagnola. Nelle prossime ore, diceva il nostro collega Sergio Nava, potrebbe succedere un po' di tutto. Per ora non sono state convocate elezioni anticipate in Catalogna. E poi per la politica italiana abbiamo parlato del Rosatellum, che è legge, la nuova legge elettorale, e poi il presidente del Senato Grasso che lascia il PD, e per quanto riguarda Banca Italia il presidente Gentiloni ha indicato Visco per il secondo mandato come governatore. Adesso un altro tema. Parliamo di questa sentenza che rende un po' di giustizia sul tema della violenza contro le donne e non solo, di chi subisce lesioni gravi o muore per violenza. In particolare però in merito ai casi infiniti, lo sapete, in media ogni 3 giorni di femminicidi, ne parliamo spesso qui a Effetto Notte, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, la quale ha respinto la tesi del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio, che erano contro l'indennizzo alla madre di una donna uccisa nel 92, Rossana Vade, uccisa ad Alesano vicino Piacenza. Il risarcimento per il legale della donna va concesso anche se il reato è avvenuto prima del recepimento di una direttiva europea del 2005, e quindi questa sentenza stabilisce che lo Stato italiano deve risarcire la vittima di un reato violento perché la direttiva europea 2004 garantisce un indennizzo per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro. Ne parliamo con Manuela Ulivi, che è avvocata e presidente della Casa delle Donne Maltrattate di Milano. Buonasera. Buonasera. Buonasera avvocata Ulivi, quindi ci spiega più semplicemente, più chiaramente che cosa comporta. La sentenza in sé, come al solito, non si può commentare se non si conosce precisamente, però la direttiva europea di cui lei ha fatto cenno, del 2004, è ben lungi da essere rispettata dall'Italia, perché dunque questa direttiva ovviamente prevede che siano adottate misure necessarie al fine di garantire proprio un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti. Diciamo che l'Italia poi avrebbe parzialmente recepito questa direttiva con una legge dell'anno scorso, la 122 del 2016, che però è veramente molto modesta, perché crea un fondo per le vittime di questi tipi di reati ma a cui hanno accesso solamente coloro che hanno un reddito lordo molto ridotto, di 11.500 euro all'anno. Ricordo anche che l'articolo 30 della Convenzione di Istanbul a sua volta recepisce sempre l'indicazione rispetto alla quale lo Stato deve garantire la riparazione del danno, e qui stiamo parlando proprio di violenza nei confronti delle donne, se questo non è garantito da altre fonti. Quindi diciamo che abbiamo una normativa internazionale tra la direttiva europea del 2004-80 e l'articolo 30 della Convenzione di Istanbul, che è legge dal 2013 per noi, che prevede tutto questo. Quindi io penso giustamente la Corte d'Appello di Bologna ha quindi dato applicazione a direttive che, ricordiamoci, essendo internazionali, hanno un valore superiore alle norme nazionali e quindi sono di rango costituzionale. E bisogna che lo Stato cominci ad adattarsi a tutta questa situazione, perché altrimenti continuerà ad avere condanne. Innanzitutto bisognerebbe cominciare a fare anche un lavoro di prevenzione, quindi cercare cominciare a riparare il danno ancora prima che questo accade, venga fatto, che venga compiuto, insomma. E quindi questo è tutto un altro discorso, e anche qui secondo me lo Stato italiano deve cercare di adattare la propria normativa conformandosi a quella internazionale, perché fornire adeguati risarcimenti civili è anche previsto nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione. Certo. Quindi insomma c'è una normativa molto articolata che a questo punto dovrà l'Italia farci conti ed evitare di avere non solo condanne dai nostri tribunali di un certo tipo, ma anche condanne di carattere internazionale e quindi dalla Corte europea per non essersi adeguata in maniera opportuna. Già. Grazie della chiarezza, avvocata Manuela Ulivi. Grazie, buona serata. E c'è la viabilità e poi un altro tema. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E prima di passare all'altro tema, e vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, vi ricordo prima del prossimo tema i fatti principali, che sono appunto il Rosatellum bis, che è diventato legge, la legge elettorale è passata definitivamente al Senato. Gentiloni intanto che conferma Visco per il nuovo mandato in Banca d'Italia, e poi pensioni, il governo convoca i sindacati per il 2 novembre. Niente voto anticipato in Catalogna, quindi c'è la sfida tra Barcellona e Madrid, che Puigdemont, il presidente catalano, non convoca elezioni, dice decida il Parlamento. Nelle prossime ore potrebbe succedere tutto. Sciopero di bus, metro e treni, rischio venerdì nero per domani. Stop di 4 ore per le ferrovie, protesta di CUB e di autonomi. Insomma, ci sono orari ovviamente diversi per le varie città e anche per i vari mezzi, come chiedeva un autista. Dice quali sono le notizie. Deve un po', adesso così in sintesi, è complicato dire, no, per ogni città e per ogni categoria, quindi magari di guardare sui siti o su internet. Intanto adesso direi di passare a questo tema, a questa polemica che riguarda il mondo della scuola. Allora, la ministra dell'istruzione Fedeli oggi ha, in una trasmissione della 7, ha confermato che c'è una legge che salvaguarda la tutela dei minori e la loro incolumità, insomma dei ragazzi sotto i 14 anni, quindi delle elementari, delle medie e anche quelli che magari nella prima scuola, nella prima superiore hanno ancora 14 anni. Questo è successo dopo una recente sentenza della Cassazione che ha condannato un preside e un docente dell'ultima ora della mattina di scuola per non aver affidato a un adulto un ragazzino di 11 anni morto sotto, andando purtroppo sotto uno scuolabus. E però questa legge che obbliga i genitori o i nonni, insomma, ad accompagnare, ad andare a prendere i figli a scuola, sta creando molto subbuglio, perché tanti non sono impossibilitati a farlo, e anche alcuni presidi hanno scritto una lettera appello per la liberalizzazione del percorso casa-scuola, inviata al Parlamento questa lettera e al governo, scritta da alcuni dirigenti scolastici. Tra questi c'è Donatella Gentili, Michelini, che è preside dell'Istituto Comprensivo via Aretusa a Roma. Buonasera, professoressa Gentilini. Buonasera. Buonasera. Quindi questa cosa, insomma, vi sta un po' destabilizzando? Sì. Allora, in realtà la nostra lettera aperta al ministro e ai sottosegretari, diciamo ai decisori chiaramente istituzionali, è stata fatta dall'ambito 3 di Roma, dei presidi degli istituti comprensivi dell'ambito 3 di Roma, e poi si è allargata a macchia d'olio ad altri ambiti sia di Roma ma di tutta Italia, perché è un problema che diciamo coinvolge veramente tutto il nostro paese. Noi ricordiamo che in realtà c'è un disegno di legge fermo da 17 anni per una modifica al testo unico che noi conosciamo bene, quindi vorremmo parlare con il ministro e esporre, diciamo, le nostre problematiche, perché la normativa la conosciamo molto bene. Il testo unico appunto ci dice espressamente fino al rientro reale, subentro, mi perdoni, reale o potenziale del genitore tutore o di chi ne fa le veci. Ma fuori dalla burocrazia, noi chiediamo appunto una modifica del testo unico semplicissima, cioè scrivere che il subentro sia potenziale. In che senso? Nel senso che appunto vorremmo accompagnare gli studenti delle scuole della secondaria di primo grado, quindi delle cosiddette scuole medie, in un percorso appunto di ricerca dell'autonomia, quindi chiaramente non abbandonarli assolutamente, noi sappiamo benissimo quali sono i nostri obblighi di vigilanza, ma cercare una condivisione con genitori, con attori del territorio, forze dell'ordine e quant'altro, per appunto assicurarci che il percorso casa scuola, scuola casa sia fatto prima guidato e poi sempre più autonomo, in completa logicamente sicurezza, anche perché ricordiamo che in Europa il 90% dei bambini torna a casa da solo. E ricordiamo anche che molti di questi ragazzi vanno a scuola calcio, chi al basket o attività di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, naturalmente da soli. Quindi è chiaro che questo obbligo ci lascia veramente molto, molto preoccupati. Che però in realtà, professoressa Gentilini, finora mi pare che non sia stato rispettato, nel senso che io vedo dappertutto ragazzini e ragazzine che vanno e vengono. Il problema è che non è che non è stato rispettato fino adesso. O applicato, non so. È che finora, diciamo, c'è sempre stato questo vuoto legislativo e tutti hanno un po' fatto finta di niente. Ripeto, sono 17 anni che c'è un disegno di legge fermo in Parlamento. Ma quindi per voi presidi cosa succede adesso se la ministra dell'Istruzione ha confermato questa cosa? Ecco, appunto, noi vorremmo veramente, chiediamo a gran voce un incontro con il ministro proprio per spiegare quali sono le nostre ragioni, logicamente, e soprattutto confrontarci su una possibile soluzione normativa, ci tengo a sottolineare, della cosa, che non è quella appunto di semplicemente liquidare il fatto devono venire i genitori o i nonni o babysitter o quant'altro, cioè vanno calate queste dichiarazioni poi nella realtà dei fatti. Professoressa Gentilini, per esempio c'è un ascoltatore, sì, Torino, che scrive: non sarebbe meglio far fare una delega ai genitori per i ragazzi sotto i 14 anni che autorizzano l'uscita da scuola senza la presenza dei genitori? La delega non ha valore legale, nel senso, la liberatoria cosiddetta, la delega o quant'altro, cioè la delega, l'istituto della delega permette solo al genitore di delegare un parente o un conoscente, andarlo a prendere al posto proprio. Abbiamo ancora un minuto, professor Gentilini, quindi ci vuole una modifica della legge, questo che chiedete? Assolutamente voi. Sì. Noi chiediamo una modifica del testo unico che logicamente può prendere solo il Parlamento, il Ministro, ripeto, o il sottosegretario. Immagino che i genitori siano con voi in questo? La maggior parte, perché chiaramente anche loro sono chiaramente preoccupati. Cioè, è giusta la legge, però poi calata nella realtà, come dicevo. Nella realtà è ben altro. Crea un po' di problemi. Grazie. Vediamo allora, vediamo un po' se è possibile parte del governo. Speriamo di essere ricevuti al più presto. Bene, nel caso ci aggiorniamo. Grazie, senz'altro. Grazie Donatella, grazie Gentilini. Ancora e buona serata. Grazie, buona serata e buon lavoro. Noi ci lasciamo temporaneamente per poi riaggiornarci brevemente alle 22.